Ciao raga. Bella raga. Noi siamo i Night, da qua vicino, da Viterbo. E prima di tutto grazie a Dario per organizzare questo concerto, a Pompeo per essere il solito mostro schifoso che è, a tutti i ragazzi del Forte che ci hanno invitato e agli amici che sono venuti da lontano, grazie. E prima di continuare sta schitarrata volevo ricordare il motivo perché siamo qui, perché poi alla fine è facile che cantiamo, zompiamo e ci scordiamo quando si dice benefit che in realtà non è una cosa virtuale, cioè ci stanno persone in galera purtroppo, e purtroppo per quanto riguarda l'alta velocità ci stanno persone in galera per un'accusa ignominiosa che è quella di terrorismo, ignominiosa, in un paese come l'Italia dove lo Stato ha messo le bombe fino all'altro ieri, quindi bisognerebbe sapere e distinguere chi è il vero terrorista. Insomma, c'è sta gente che per aver fatto scoppiare un compressore, comunque non la voglia vedere la cosa, gli hanno dato terrorismo. Insomma, quindi sperando che i nostri compagni tornino prestissimo a casa, noi siamo qua cercando di fare quello che possiamo fare, quello che sappiamo fare meglio. Grazie raga. Oh! Grazie, raga. Cover Sepultura. Ciao a me. No, no, no, no, no. La fava. Trombo. Allora, sì, ci stavano, prima facciamo due pezzi attaccati, la chiamavamo la combo, mo sono diventati tre pezzi, ci scuseranno le compagne del forte, noi le chiamiamo la trombo, quindi vabbè, tre pezzi attaccati. Il primo la cover de Negazione, Cannibale. Odio, odio, odio. Seconda parte della serie, essere adolescenti, medallari, farsi un sacco di pippe e non avere una ragazza. Iron Maiden. I'm not the one. pezzi e se le vanno al cazzo. Grazie raga, e volevo fare un invito, 10, 100, 1000 compressori accidentalmente rotti e tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi, tutti liberi. E l'altra cosa che volevo ricordare raga, è vero che se schifezze della TAB, chi le decide, la politica, ma poi la gente con cui i compagni si confronta, il braccio armato, sono sempre gli stessi stronzi, e quindi il politico sarà pure un cagacazzi, ma quello con cui poi noi ci spacchiamo le corna e ci confrontiamo è sempre lo sbirro. Quindi che gli possano scoppiare tutti 10, 100, 1000 accidentalmente, non sia mai i compressori sul muso. All cops are bastards, all cops are bastards. Yeah, man. Grazie.